Nei territori che cambiano, nelle strade e nelle case vuote, la terra trema. Per la settima edizione, la Fiera dell'Enogastronomia Eversiva torna al Leoncavallo di Milano. 3 giorni di degustazioni, acquisti diretti, confronti pubblici, concerti e cene a filiera diretta. Nostre sono le mani, ribelli, che conquistano goccia per goccia nuova vita e socialità. Siamo la vita pulsante dei luoghi, siamo la gioia, siamo agricoltura e le sue sorelle. Scegliamo da che parte stare, prima di alzare i calici. La Terra Trema 2013, 29-30 novembre, 1 dicembre, al Leoncavallo di Milano. LaTerraTrema.org.